Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti in frequenza. Noi siamo quelli di Blu Radio Sera, l'appuntamento serale con la musica, in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. Quindi buona serata da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara. Buona serata a tutti. Oh, non ti vedo ma ti sento, sono Maurizio, qua. Ho provato a vedere se eri già presente e attivo davanti al tuo microfono, mi hai abituato a molte sorprese, ecco, in questo caso ci sei. Però so che non sei solo e vedo già dall'altra parte del vetro gli ospiti di questa serata live. Sì, buonasera, direttamente da Brescia o da di dintorni. Mirror Band, state bene? Sì, bene, grazie. Avete fatto buon viaggio? Sì. Un'oretta quasi. Siamo anche arrivati stranamente per noi in anticipo. Avete trovato traffico? No. Normale, benissimo. Forse avevate il pass per arrivare prima da queste parti. Sapendo che dovevate arrivare a Blu Radio Veneto, vi hanno aperto la corsia preferenziale della 4. Abbiamo usato la tecnologia, una cosa per noi quasi vietata, però... La sirena. Sulla cappotto dell'auto. Vabbè, sono cose che si fanno. Quindi salutiamo i Mirror Man, salutiamo Leo, Paolo e Stefano, che ci sono venuti a trovare muniti di strumenti musicali, lasciando a casa o da qualche altra parte il percussionista. Difatti io mi ero preparato anche per ospitare la quarta persona, che però si è fermata da qualche parte, tipo Austria, dalle parti dell'Austria. Esatto. Bene, allora, sempre via per lavoro. Sì, lo salutiamo, Cruscott. Sì, ecco, in questo caso saluto, anche perché forse se arriva almeno in tempo per sentirci ci sentirà, sta sentendo. Sappiamo allora segnalare ai nostri ascoltatori che noi non siamo solamente una radio da sentire, ma siamo anche una radio da vedere, e siamo presenti quindi all'interno di un nostro sito internet del tutto particolare, che concede agli ascoltatori anche di vedere le belle faccione che presentiamo questa sera. Per cui diamo quello che è l'indirizzo internet: diretta rockwave.tk. Ecco, mentre il nostro sito internet è www.bluradioveneto.it, e cliccando su una parte della pagina si potrà anche accedere allo streaming audio. Dove nasce l'idea di Mirror Man? Come si costituisce l'input? Il gruppo è nato nel 2002. Bisogna dire che prima di questo gruppo c'era un altro gruppo che si era sciolto pochi mesi prima. Sei mesi prima, il 2002, non mi ricordo. Si era esaurito, praticamente. Si chiamava Krell. Ecco, che aveva un... Come dire, è stato tutto un percorso un po' partendo da zero, che ci ha portato fino ad ora, ma anche dal punto di vista più che di un po' aver imparato a suonare in questi più di 10 anni ormai, ma anche un po' dal punto... È stata una sorta di percorso proprio... Non siamo passati da un genere all'altro o ci siamo sempre fermati lì. C'è stata una progressione. Evoluzione continua. Dal garage rock più anni 60, tipo Sonics, cose di questo tipo. E... Infatti il nome del gruppo derivava da un film di fantascienza. Era il pianeta proibito, il popolo del sole si chiamavano Krell. Ecco, si chiamava Krell. Quindi sempre legato alla leggenda. Quell'immaginario lì, fantascienza, sì, anni 50. Invece adesso per andare a bomba su quello che è il vostro nome attuale, quindi Mirror Man, io un'idea ce l'avrei, però vorrei la vostra conferma. Mi sa che è giusta l'idea. Stiamo parlando di lui? Sì. Del capitano? Del capitano che purtroppo se n'è andato da qualche mese. Sì, a dicembre mi pare. Esattamente. Poco prima di Natale. Tante cose, chi è destinato a fare questa musica? Cioè, anche Frank Zappa c'era, no? Lì di mezzo. Certo, era un... Praticamente qualcuno ha detto che Frank è diventato Frank anche grazie al capitano, chiaramente. E diciamo che si sono dati una mano. Esatto, si sono dati una mano. Ma anche una mano... Sì, anche le botte. Si sono anche odiati a un certo punto. Sì, è vero. Va bene, comunque come dire... fanno quelli... figli davvero, sì, no? Ecco, esattamente. Per cui i grandi geni qualche volta si odiano. Sono cattivi. Esatto. E poi avevano proprio approcci diversi, io penso, alla musica. Proprio approcci diversi, anche se poi hanno collaborato molte volte insieme. Poi la Magic Band era soprattutto di Capitan Beefheart. La Magic Band era quella di Capitan Beefheart, però c'erano alcuni musicisti che hanno suonato con Zappa, tipo Roy Estrada o altri, adesso non mi ricordo, però alcuni musicisti si sono sono passati in tutte le formazioni. Quindi un velato omaggio al capitano, il vostro nome. No, è un dichiarato. È un dichiarato omaggio al vostro, al vostro capitano. No, proprio... A Don Van Vliet. Don Van Vliet. Esattamente. Ecco, bene, è una cosa positiva questa. Sì, sì, anche perché non l'abbiamo neanche cercato. È venuto così. L'ho scelto io, piaceva molto a me, e poi comunque sono d'accordo anche gli altri, chiaramente. Certo. E è una dichiarazione di intenti, come dire, di non accontentarsi di una semplice musica, ma di cercare con quelle che sono le nostre capacità, che sono più creative che non tecniche. Noi ci teniamo molto a questa cosa, nel senso che io non so suonare assolutamente niente. Leonardo un po' la chitarra, Paolo è bravo. Paolo, la sezione ritmica, sono non due veri musicisti. Non siamo virtuosi nessuno. Ecco. Però le canzoni non le fanno loro, per cui diamo il nostro contributo musicale. No, però le aggiustano. Ah, le aggiustano. È già positivo. Tu hai detto una cosa giusta, capitano, e voi chiaramente. Musica, ma che non è non musica in certi momenti, più la creazione, la creatività, che non la musica. Sì, la creatività e l'espressività, ecco, ci interessa soprattutto questo. Non ci interessa le cose fatte bene. Fatte giuste più che bene, nel senso, se una cosa deve suonare male, anche stonata così, la facciamo suonare. Ma nell'ambito, cioè, sempre nell'ambito, però. Non stonata volutamente stonata. Stonata nell'ambito del discorso. Sì, anche perché sembra stonata, sembra fuori ritmo, sembra fuori da tutti i valori della musica, in realtà poi, prendendolo un po' alla volta, il vostro Stelle di Ruggine, cioè... Fa capire esattamente, ha il suo senso. Sono molto strutturati i pezzi, in realtà. Sì, in effetti. Tutti i passaggi di tempo sono preparati, sono studiati, un po' un approccio come se fosse un peccio, un collage. Sì. Ma molto perfetto, cioè curato nei minimi particolari, dove non è il classico ritmo, non so, i quattro quarti che tutti lo seguono. Qua o andate d'accordo o andate d'accordo. È un po' difficile quando la facciamo i concerti, perché dobbiamo proprio intenderci, quindi devo guardare il batterista un momento, giusto, perché sennò se si passa i tre quarti e lì io passo e gli altri no, è un problema. Sì, assolutamente. Poi ascoltando questo disco che ti appassiona un po' alla volta, voglio dire, ci sono tanti elementi per ascoltarlo e trovare sempre degli elementi nuovi di cui non te ne eri accorto prima. Che bello, mi fa molto piacere. Poi ascolteremo, avremo modo anzi di ascoltare a brevissimo il primo pezzo che in relazione al vostro tipo di musica, dove va tutto al contrario, partiamo dalla canzone numero 7, giusto, per arrivare poi alle altre canzoni. Bene, Maurizio. Sì, canzone numero 7, giustamente si parte dall'ultimo pezzo, e è la caratteristica di questa band, praticamente un percorso che non può essere un percorso a rovescia, volutamente a rovescia, è quello il discorso. Sì, anche se può sembrare un po', però è tutto fatto in una certa maniera, come giustamente ha detto Flavio, non ha lasciato niente al caso, sembra, ma non è così, assolutamente. Bene, allora direi di cominciare a far conoscere ai nostri ascoltatori chi ci è venuto a trovare direttamente da quel di Brescia con la canzone che si intitola Velázquez. Loro sono i Mirror Men. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Costelli a sentire i fantasmi della sera. Foglie di fiori tu porti con te. Lo stagno rifrange ogni segni sul tuo cuore. Non c'è nessuno che è bello come te. Ristagna il pensiero su pezzi di parole. Sono scritti su foglie, sono tracce di lui. Carezza e supero dalla sua pelle chiara. Fra grigi e lilla. Beato quel verme nel suo grado. grammi di grano. Di notte e di giorno vorrei solo lui. Felice e contento di restare da solo. Tu invece vorresti velasca ancora con te. Velasquez restava nella tasca. Un ratto carino amava star con te. Corriva e giocava e correva sotto i muri. Ma ieri è la sera e morta non c'è più. Se lascio qui nel giardino sotto un fiore resterai e lascio qui vicino al mio ai Velasquez grigiosa e resta qui io resto solo. Radio Sera. Blu Radio Sera. se prima non avessimo costruito un bel cappello su questa canzone, la gente in ascolto avrebbe detto: questi sono dei pazzi, no? In realtà no, sono qui, sono con noi, sono in alto grado cognitivo, sono i Mirror Man e ci stanno presentando quello che è il loro ultimo lavoro, che si intitola Stelle di Ruggine. La prima canzone che abbiamo ascoltato, che è l'ultima del loro CD, si intitola Velázquez. Questa ballata che è anche un po' un requiem, mi sembra di capire come l'avete definito voi nella vostra autorecensione. Sì, è un requiem dedicato alla figura di un topo. Un topo che accompagna. Io mi sono immaginato questo perché mi costruisco un po' delle sequenze cinematografiche prima di mettermi a scrivere. Non hai visto Ratatouille, no? No, okay, no. Vabbè. Mi sembrava un'immagine poetica. Un uomo solo, un barbone che è affezionato, vive con il suo topo, e questo topo muore. Muore, quindi va a seppellirlo in un giardino sotto il glicine, eccetera, e c'è il senso della solitudine, come si può dire, del dolore e soprattutto del ricordo, e del ricordo che tiene vicino questo barbone a sembrava poi giusto nobilitare. Io sono anche animalista, mi sembrava giusto nobilitare un esserino che a me piace tanto, che invece è sempre stato così, sempre un po' bistrattato, ma anche perché diciamo che però forse se gli cambiano un po' l'immagine. Un po' un fiore anche a lui, mi sembrava giusto dedicarlo. E va bene, è anche un pezzettino di formaggio, visto che un pezzettino di formaggio, è morto, purtroppo, l'hanno avvelenato. E musicalmente come lo possiamo inquadrare, Velázquez? Questo blues, questa armonica quasi impazzita nel senso positivo del termine, quasi pancheggiante. Come lo definite quel pezzo? Come l'avete inventato dal punto di vista musicale? L'abbiamo, perché era nato in maniera leggermente diversa, nel senso che siamo molto appassionati anche della musica tipo quella di Courvai, questa cosa qui, quindi uno stile da cabaret però mischiato col blues, che ha dato vita a questa cosa, che fonte di tutto praticamente. E avremmo voluto fare una cosa di quel tipo lì, poi però cominciando a suonarla e provarla anche soprattutto con Luca, il nostro batterista, gli ha cambiato un po' il tempo, è uscito questa specie di funk, non so. Sì, un po' di funk, un sincopato. Esattamente. No? Peccato che Luca stasera non c'è, però a me sarebbe stato piacevole chiedere questo stop and go continuo, questi cambi continui di tempo. La chitarra però è nata da questa specie di loop, di riff della chitarra, e c'è stato un adeguamento dalla chitarra. Io la intendevo una ritmica più spezzata, più spezzettata all'inizio, mentre invece è uscita continua così, un po' quando is da dance. Perché la volevi un po' teatrale praticamente. Io cercheremo di fare pezzi in modo più teatrale, cantati in italiano esclusivamente d'ora in poi. Mi piace per esempio Gabriella Ferri, certo, mi piace molto come interprete, e sono legato così all'immaginario della Berlino, la Repubblica di Weimar, ecco, la Berlino del club, del cabaret. Ecco. Certo, un po' fumosa. Stesso, cabaret, a me piace. Chiaro. Quindi ti piace anche un po' Milva, si può dire. Sì, no? Visto che visto che Milva ha fatto più successo in Germania, a Berlino anche in particolare, e non è più stata molto considerata qua in Italia, proprio per il suo genere di musica. Anche per la sua integrità, perché tra l'altro ha buone idee, condivido, quella Milva la rossa, a me piace che sia rossa di capelli, eccetera. E sei sempre accompagnata con grandi autori. Sei sempre accompagnata con grandi autori, non si è mai svenduta. Certo, sono d'accordo. Ha sempre mantenuto questo proprio fascino, quindi merita anche di essere rivalutata anche qui in Italia. Ma infatti ci tengo mi fa piacere che siamo venuti sul tuo argomento, perché ci tengo a dire, fino a pochi anni fa cantavamo in inglese, infatti il gruppo ha iniziato i primi 4 anni soltanto in inglese. A un certo punto abbiamo capito, per fortuna, che la musica che volevamo fare noi si poteva fare anche in italiano, e lì c'è stata un po' una svolta, nel senso che comunque prima avevamo una strada leggermente diversa che ci stava già portando in questa direzione, però mantenendo comunque l'inglese, che va bene, va benissimo, però secondo me a un certo punto anche perché non siamo più giovani, ti viene voglia anche di così provare a fare qualcos'altro che ti riguardi di più, nel senso che a un certo punto mi veniva un po' il dubbio che quello che facevamo fosse un po' un'imitazione di cose che ci piacevano. E chiaro, anche adesso, no, lo stanno dicendo adesso, i riferimenti ci sono tutti, però il fatto di comunque aver inserito l'italiano ci ha comunque costretti a una, affrontare delle difficoltà in più. Delle grosse difficoltà, che non è semplice. Che ci sono, facendo, mantenendo comunque un certo tipo di musica, perché non volevamo fare rock italiano, okay. Non ci interessava, e parlo di roba tipo After Hours, Marlene Kunzo, tutta quella roba lì. Casomai, ecco, gli Art Decore a noi piacciono molto. Ecco, è stato da lì, quando abbiamo sentito il loro primo disco, ci ha aperto gli occhi. Poi mi è venuto a dire, caspita, bastava, no, ascoltare meglio certe cose che già ascoltavamo, tipo Gabriella Ferri, così, per capire questa cosa. Gli Art Decore sono di Roma, mi pare, sì, no? Sì, e c'è un collegamento con Gabriella Ferri, notevolmissimo. Sì, loro cantano tanto. Esattamente, quindi. Va bene, allora abbiamo parlato anche di altri artisti molto importanti, cercando anche di ridare credito a queste persone che comunque hanno fatto parte anche della nostra televisione, della nostra radio di qualche tempo fa. Poi, e poi sono figure comunque un po' perdenti, soprattutto Gabriella Ferri, Gabriella Ferri, e quindi noi stiamo da quella parte lì, non stiamo dalla parte di quelli che... Non per forza, non è una legge. No, certo. A me piacciono anche le rockstar, io ci vuole, io no. Tu no, io sono un patito di David Bowie e mi piace, ma non è mica un perdente David Bowie, ma Bowie ha fatto, ha fatto un infarto, sì, va bene, okay. Però ha fatto anche la parte del perdente in alcuni momenti, musicalmente parlando, ha fatto la parte dell'alieno, dell'alieno, sì. Sì, e anche del principe in altre occasioni, insomma, ha partecipato anche al cinema. Vabbè, comunque, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con i Mirror Man, il loro ultimo lavoro si titola Stelle di Ruggine, e ci sono venuti a trovare Leo, Paolo e Stefano, con i quali stiamo piacevolmente conversando, non solo conversando, perché visto che avete quelle due chitarre, quella serie, quella scatola densa di percussioni alquanto particolare, ho visto anche dei tappi... legati tutti cose insieme, un po' rumorose. Sono rumorose, ma allo stesso tempo fatte in casa. Sì, sì, le faccio. Non l'ho fatta neanche questo. Io l'avevo fatto un mio cugino, che anche lui è un vero musicista. Sì. Il quale, facendo un corso, diciamo, propedeutico di musica ai miei nipoti quando era molto piccolo, gli aveva costruito questa cosa. Bene. E come l'ho vista, gliel'ho rubata. Puoi fare sentire come suonano da soli quei tappi? Sono curiosissimo. Vediamo. Ecco qua, già prendevi su. Un esercito, praticamente. È una cosa un po'... Sì. Bene, tipo il mazzo di chiavi. Vabbè. Affrontiamo anche questo. Vabbè, allora, che pezzo ci fate ascoltare, Mirror Man? Discarica, il primo pezzo. Il primo pezzo che è anche tratto è la traccia numero 3 di quello che è il vostro lavoro, Stelle di Ruggine. Ok, l'ascoltiamo insieme. Cavallo bianco destriero, non corri più, fra i pupazzi nella strada. speranza non ci sei più, sei rotto ed ha portato via, non gli piacevi più. Minchia Graziella, le tue rotelle non girano più nelle strade giù nel cortile, non ci sei più, sai di rudine ed ha portato via, non servivi più. Oh mappa mondo, tutto rotondo, non brilli più tra le foreste, mari e paesi, non mostri più, sei spento ed ha lanciato via, sei rotolato giù nella discarica, tutto va giù, tanti ricordi non torna mai più, no, non mi lasciar, guarda che nuvole, guarda in su, guarda che cielo blu, no, non mi lasciar, pesca ruggera ci laverà in una notte di libertà, no, non mi lasciar, quel che c'è stato non tornerà, quel che finisce non rimarrà, no, non mi lasciar, guarda che nuvole, guarda in su, guarda che cielo blu, no, non mi lasciar, guarda che nuvole, guarda in su, guarda che cielo blu. Blu Radio Sera. E se non fosse perché mancavano i sombreri, avrei detto di essere con un gruppo messicano. In realtà siamo ancora con i Mirror Man, che ci stanno presentando il loro ultimo lavoro, che si intitola Stelle di Ruggine, e abbiamo ascoltato questa discarica. Dicevo ai ragazzi mentre andava lo stacchetto che mettono in difficoltà i DJ perché non si sa mai quando finisce il pezzo. Hai sentito, Flavio? In effetti ero là che fortuna che l'abbiamo ascoltato almeno 5 volte a testa il CD, perché è live, è bello per quello, cosa dite? Sì. Anche perché magari si può troncare una canzone. Esattamente. Non succede niente. Sì, quando vuoi, quando sei stanco. Era così. A posto. Sì. Questo giustamente Flavio ha parlato di Messico, Italia, cioè non è il pezzo di Iannacci, però no, però un po' Messico e nuvole, un po' della sua venatura triste c'è, e poi nasce da un cortometraggio di Pasolini, che è Cosa sono le nuvole, e mi ha sempre fatto un po' di tenerezza pensare alle cose che la abbandoni, le cose che poi vengono lasciate in cantina e buttate via, i giocattoli, dei bambini, anche le persone, anche il mondo, poi alla fine, perché mappa mondo, no? Con il consumismo che lo divora, un po' questo senso qui. È una bella immagine, un po' triste, però. Leggermente triste. Io sono, cioè, anche se le ritmiche sono vivaci, così c'è una venatura un po'. Siamo profondi, ecco. Un po' nebbiosa, un po' così, ce l'ho sempre. Certo, certo. Anche perché poi dicono che nelle canzoni più vivaci, più particolareggiate, che si nasconde un dramma più forte molte volte. Sì. E quindi la canzone serve anche come valvola di sfogo importante per il gruppo, che poi si accorge anche che magari piace nella propria così personalizzazione del, come dire, scaricare verso il mondo questa propria, questo proprio disagio, chiamiamolo. Cioè, per quello che mi riguarda, mi piace utilizzare degli stereotipi magari, no? della poesia, della canzone, e poi renderla alla nostra maniera. Torna sempre la luna, torna sempre l'amore, però ecco, il fiume amaro dedicato è praticamente Marinella, è rivisitata, diciamo, un po' di poesia vezzeggiata, sì. Trasformata, mi piace la trasformazione, ecco. che non è una vera e propria prosa, però voglio dire, andiamo oltre in questo caso. Sì, decisamente. Una poesia vezzeggiata, hai parlato. Lui l'ha detto. Ma possiamo allargare il discorso della poesia vezzeggiata? Poesia vezzeggiata, la poesia resa, come si può dire, materiale da cui prende ispirazione. Io anche proprio perché io non ho una formazione vera, come diceva la Stefano prima, di musicista, e quindi tutto quello che è che conosco, tutte le cose che mi appassionano, in qualche modo cerco di filtrarle, di trasformarle a modo mio, ecco. Quindi c'entra molto il cinema per me. Quindi momento... qualcuno ha parlato di David Lynch per voi. David Lynch, perché per me e per noi... No, non dici no. Sì, adesso non più, forse un pochino. All'inizio. Adesso... Secondo me abbastanza, comunque lo stesso. Ma noi siamo d'accordo, non è abbastanza. Forse per la copertina tutta nera, cioè per quello. Copertina tutta nera. È un altro, Lost Highway. Ecco. Tra altre cose, molto curiosa a proposito di copertina, perché vi riprende in pose davvero particolari e molto sul filo del teatro dell'assurdo. Sì. Perché c'è, non so chi sia, con la ramazza, che è... Io. Eccolo là. Quindi è Paolo che ha la ramazza per l'occasione, poi chi è sopra lo sgabello? E sono io. Ecco qua. Non è un microfono. Che stai cantando? No, quello sembra uno scopino del... No, è un mestolo. È un mestolo di quelli vecchi. Ecco, volevo vedere fino a dove... Non l'abbiamo trovato, se no avremmo usato lo scopino. Vabbè. E poi ci sei tu, Stefano, che stai suonando uno scheletro. Sì. E non è che riprendi in un certo senso anche quello che... Il disco che avete fatto un po' prima, dove si parla anche di Skeleton Wife. Sì. Non è lei? No, però gli scheletri c'entrano sempre. La morta, ne avete gli armadi pieni, diciamo, di questa cosa. Benissimo. Allora, in un certo senso, anche nella canzone che abbiamo ascoltato, si sentiva un po' di Captain Beefheart, perché c'era un'armonica molto presente e molto attiva. Sì, mi piace non mi piace, in generale tutte le cose che faccio le faccio in maniera abbastanza un po' caricata, e quindi anche suonare l'armonica difficilmente la uso come strumento, cioè, mi piace che sia un'armonica bella, espressiva, certo, bella, che esce anche in maniera grezza, anche in maniera molto un po' feroce, un po' sferragliante. Certo, e allora visto che abbiamo ancora un'ora abbondante di trasmissione, però vogliamo ricordare anche i nostri ascoltatori, per conoscere qualcosa di più dei Mirror Men, in quale sito possono andare per vedere e conoscere ancora più profondamente il vostro, diciamo, la vostra filosofia musicale? Abbiamo una pagina MySpace, che adesso non usa più nessuno perché sono tutti su Facebook, però noi Facebook non ce l'abbiamo, abbiamo mantenuto il MySpace, si possono vedere alcune fotografie, però si può vedere un video che è contenuto in questo CD. Ah sì, poi parleremo anche di questo. Si può vedere dove riprendiamo anche qui questo discorso legato alle cose che ha detto prima Leonardo, a una poetica un po' oscura, ma grottesca, ecco, se per, perché lui ci mette la sua parte, ognuno mette il suo pezzettino, ecco, lui ci mette un aspetto più, chiaramente scrive le canzoni, scrive i testi, quindi una parte un po' più poetica, io ci metto una parte un po' più grottesco, cafonesca, ma nel senso buono della parola. Sì. Per lo meno per te, voglio capire per lui e per lui, cioè, per lei o per Paolo, perché Paolo... non andate mai d'accordo, no? Ho capito dall'inizio. Io lui. No, spesso io e Stefano non andiamo d'accordo, si litiga anche volentieri. Non è che ci sia un Liam però... Noyle che no. che aleggiano, Luigi proprio no. Come no, Zappa, però si è riusciti a fare una buona sintesi, insomma, certo. Ecco, è più che altro come atteggiamento di fondo, ecco, che è diverso, ma non nei propositi e non nel background che abbiamo comunque in comune, parecchie cose che sono la sua passione, sono anche la mia passione, ci intendiamo su questo, certo. Poi come concretizzarlo, come renderlo, ecco, lì a quel punto ci sono sempre le divergenze. Certo. Ascoltiamo un altro pezzo del vostro. Posso tornare un secondo, sì, sul certo. video? Torno oppure indietro, torno indietro. So. Dopo parliamo del video. Okay, più dopo, tardi. Dopo, sì, ok, allora adesso ascoltiamo un'altra traccia che abbiamo scelto insieme prima. Parliamo di Fiume Amaro. Anzi, prima di parlarne, lo ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. essere me che ti amavo e ti adoravo, rosso come l'amore, il mio mantello non è più rosa, una bianca rosa nella corrente scivola via, qui non tornerò mai più, mai più. Fiume, fiume amaro scorre per sempre dentro di me, fiume, lo stesso fiume che ti ha portato via da me. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, ascoltato anche Fiume Amaro, a cantarla e suonarla sono i Mirror Man all'interno del loro CD che contiene 7 tracce più una video, Stelle di Ruggine. Allora, questo Fiume Amaro, prima abbiamo parlato di Messico, però in questo caso mi sembrava un po' argentina la situation. Mi sembrava un po' tanghera, ecco. Per dire, sì, una milonga, un altro genere che mi piace ascoltare ogni tanto è il tango e il valzer, proprio anche il liscio di una volta quando veniva suonato, non quello che c'è adesso alle varie feste che è tutto sintetizzato, orribile. Sì, però, quindi un buon Raul Casadei, un po' prima ancora, il papà lo zio secondo Casadei, secondo Casadei, nessuno, ecco. Le feste di paese, ecco, un po' così, immagino, un po' felliniane. Quando detto una cosa, si utilizzavano tutte quelle elettroniche che adesso ci sono nelle feste di paese, che un po' rovinano un po' la caratteristica di quei gruppi. Registrato. È tutto registrato. Non suona quasi più nessuno. Nessuno praticamente. Hanno tutte le basi. È uno strazio andare alle feste. Per sì, poi si vede anche dall'energia del batterista che c'è molto. In genere poi mettono una musicista donna che non fa niente. Sì, però ha le gonne cortissime e quindi distrae in quella maniera. Prima, mentre il pezzo andava, Flavio, abbiamo parlato dei Rolling Stones. A proposito di batteristi, abbiamo parlato di Charles Watts. È una batteria, non è che sia una batteria straordinariamente elaborata. È una batteria, così si suona la batteria. E poi è la batteria di Rolling Stones. È la batteria di Rolling Stones. Se ci fosse qui Luca, il nostro batterista, ti spiegherebbe il motivo perché questa particolarità. Cerco di dirtelo in maniera. Perché tira, non mi ricordo. Dimmelo tu. Credo che. Questo Charleston in levare, il quarto, no? Il quarto lo lascia in levare. Flavio, tu che sei un esperto di questo. No, appunto, condivido quello che dice Paolo, perché effettivamente lui alla quarta battuta non la esprime battendo il Charleston, ma sollevandolo e quindi dando un ritmo diverso. Non è facile. No, assolutamente. Da 40 anni. È una piccolezza che però. Sì, certo. Poi magari lui è nato con quel tic, poi non so, esprimendolo con la batteria è tutto stato più facile. Beh, lui era anche una formazione jazz. Certo, così, certo, esattamente. Raffinato. Dimmi. Un musicista raffinato. Decisamente, molto raffinato. Una cosa in particolare c'era in questo pezzo, c'era un basso proprio pregnante, una cosa. Chi aveva questo voluto effetto? Disarmante, ma allo stesso tempo molto creativo, secondo me. Sì, c'era questo basso all'inizio particolarmente aggressivo, diciamo così. In realtà il giro di basso è nato sempre da Leonardo. Sì, Leonardo ha avuto l'idea. Costruisce le canzoni, diciamo che le costruisce anche pensando a quelle che possono essere gli stacchi, magari appunto per il basso o per gli altri strumenti che non siano soltanto la chitarra che suona lui. Quindi pensa anche con gli strumenti in testa, Leonardo. Sì, diciamo che pensa già. Sì, poi a, però a un arrangiamento si realizza nel momento in cui c'è la collaborazione, ovviamente. Perché però perché noi collaboriamo, ognuno ci mette il suo, ci mette il proprio gusto e la propria abilità e capacità. C'è Luca soprattutto che è appassionato di ritmi latini oppure o anche di ritmi africani, per cui cerca sempre di inserire nei pezzi dei ritmi un po' particolari, per quello che spesso sia un richiamo a questi magari ritmi sudamericani oppure in altri pezzi che magari sentiremo più verso c'è questa, verso questo andamento praticamente. Esatto. Bene, bene. Allora, Maurizio, noi partiamo anche con l'ascolto di un altro pezzo live, certo, se siete d'accordo, visto che ricordiamo ai nostri ascoltatori che il gruppo dei Mirror Man non è venuto solamente shaking hands, come si dice, solo con le mani in mano, ma è venuto con le mani, con gli strumenti, e quindi ci fa ascoltare ancora un pezzo. Avete scelto ancora... Kiss in Time. No, si intitola Tango del bicchiere questa. Ah, perfetto. Il tango del bicchiere è sempre tratto dal vostro lavoro CD, nuovo, sì, quindi da Stelle di Rudy. E vai col tango allora. Il tuo calore è una bugia, quando lontano, ma io rimango qui e parlo soltanto te. Mezzo vuoto sei il mio rubino, diamanti non ne vorrei, solo un bicchiere di rosso vino. Cadrà una stella in te, s'annegherà, sospirando, sospirando, languendo, si spegnerà, ma io rimango qui e parlo soltanto te, sospirando, sospirando, sei tu, il mio bicchiere, il tuo calore è una bugia, quando è lontano. Io rimango qui e parlo soltanto te, mezzo vuoto. Slowly, slowly I'm gone away, breaking question by my side. Who is the stranger's life of mine? Same two colors and nothing more. Second questions by my side. Where's that stranger's life for us? Some true colors and nothing more. And nothing more. You and me and nothing more. I see red skies all in my mind. There's always a trick, some kind of escape to wild the time. Closing if I into this glass, I draw the world and an ancient melody tried to be saved. You and me and nothing more. I see red skies all in my mind. There's always a trick, some kind of escape. The wilder time to close any file into this glass. I drown the world and an ancient melody tried to get saved. e il tuo calore è una bugia. Andare lontano, ma io rimango qui e parlo soltanto te. Mezzo vuoto sei il mio rubino, diamanti non ne vorrei, solo un bicchiere di rosso vino. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È proprio vero, Maurizio, c'è sempre una sfida tra, certo, tra il regista e il musicisti. Finale della canzone, sì, per non lasciare fili di buchetti in giro. Ecco qua, appena finiscono subito tac lo stacchetto. Bene, allora stiamo ascoltando la musica dei Mirror Man, un altro pezzo dal loro ultimo lavoro che si intitola Stelle di Ruggine. Questo si intitola Tango del bicchiere, quindi ancora tango. Ma una domanda sorge spontanea: c'è qualche musica che non può andar bene per essere un po' rimodellata da voi? Oh, sì, l'heavy metal non può essere rimodellato da noi. L'hard rock forse sì, qualcosa si potrebbe rimodellare. Il progressive. Io dico l'indie rock. Alla Marco? Maurizio. Maurizio, scusami. Sì. Alla Maurizio la nominava gli area prima. Sì, sì, le area ecco, sì. Io non sono molto vicino al progressive. Mi interessa qualcosa dei primi anni 70, però quando la musica rock si fa troppo prolissa, troppo. Detto questo, gli area non sono un gruppo progressive. Ecco. Tu pensi di. Non sono... Hai detto una cosa giusta. Tu pensi di non essere lontano dal progressive o pregressive, però qualcosina si annida, no, anche nel speriamo di volontariamente qualcosa si annida. Vorremmo sì, però evitare. È un po' questo aspetto un po' melodrammatico, sì, che c'è nel progressive. Esattamente. Sì, loro lo fanno in maniera un po' sinfonica, sì, così noi lo facciamo in maniera. Però avete anche paesana. Avete anche le trombe e i tromboni voi, quindi avete anche le trombe e i tromboni nel disco. Che ha suonato il fratello di Paolo. Che ha suonato tuo fratello. Un musicista vero anche lui, diplomato. Perfetto. Al conservatorio. Perfetto. Per cui adesso voi siete arrivati qui da noi. In Andrea Mondolo. Andrea Mondolo. Che salutiamo. Ecco, dicevo, voi siete arrivati in tre, il quarto l'avete lasciato in Austria, e però i vostri concerti, quando uscite live, quando vi richiedono, in quanti siete sul palco? Ci state tutti? No, cioè nel senso ci stiamo tutti, perché effettivamente siamo in quattro qua normalmente. Ma le trombe, queste cose qua? È capitato una volta. Una volta sola, purtroppo. Per tuo fratello aveva tempo. Tuo fratello aveva tempo di suonare. È stato molto bello lavorare con quel tanto di fiati che si sentono, mi piace tantissimo, certo, metterli mi piacciono proprio anche nel pop, nel rock, l'utilizzo del sax tenor in particolare, mi piace. E ti sta bene il blues del delta e i fiati? Sì. Sta benissimo, mi pare, no? Sì, usati in questo senso qui, anche ritmico è un po' nello stile della banda, diciamo. Certo, della banda, qui non devono essere appunto delle cose che ammorbidiscono, ma delle cose che rinforzano. E la caratteristica di questa band, non so se sei d'accordo Flavio, è il continuo cambiamento nel pezzo stesso, insomma. Assolutamente, un continuo divenire, un continuo cambiamento. Perché normalmente dovrebbe essere che uno usa lo stesso pezzo dall'inizio alla fine, quindi sì, per tre minuti e mezzo le stesse cadenze con il ritornello, altra strofa, ritornello. Invece qua no. Si cambia tutto, assolutamente, ed è bello così. L'importante è che, che risultino legati, che facciano che si uniscono come davvero come una sorta di gioco di incastri. E forse in questo sono un po' progressive. Ecco, forse sono in questo. Però a me piacerebbe lavorare per riduzione, non per aggiunta, nel senso che mi piace proprio trovare, mi piacerebbe, se avessi uno studio di registrazione a disposizione, trovare proprio quell'unico suono che mi piace mettere lì, quella nota di tromba lì, ecco, mentre invece tutte le cavalcate lì della, ma si potrà fare, non si sa mai, bisogna sempre sperare, chiaramente. Sì, siete ancora giovani di strada. Forse è troppo difficile per me, ma non credo che sia. No. Sì. Vabbè. Niente, allora, Maurizio, la classica domanda di delle 22. Sì, delle 22. Sì, quasi, siamo 21:57, ci siamo. Ci siamo. Allora, noi abbiamo parlato prima delle vostre grandi, vostri gusti musicali. Abbiamo parlato di Don Van Vliet, che è il Captain Beefheart, poi abbiamo parlato di Frank Zappa, di Milva, di Gabriella Ferri, però vorremmo sapere un attimino quella che è stata la vostra formazione da giovani, cioè quella è la musica che avete apprezzato di più e che adesso vi portereste nella vostra valigia in quell'isola deserta che tutti vorrebbero visitare. Parlo io? Parlo Paolo? Beh, poi tre gusti musicali a testa, quindi. Diciamo che abbiamo sì, credo, esperienze musicali diverse, nel senso, cioè, sono un attimino più giovane per cui ho superato un po' gli anni 80, per cui agli ascoltatori diciamo che sono tutti sotto i 30, siamo a posto. Una volta, ma gli anni 80 hanno generato anche tanta buonissima musica, infatti, non che non è quella che è stata rivalutata, adesso, forse la prima musica che mi ha appassionato davvero è stata nel periodo, non so, del grunge, per cui mi vengono in mente i Nirvana o i Pearl Jam o altri gruppi musicali, quando avevo io appunto 15 anni e così, quindi la musica che andava era quella lì, è quella che mi piaceva. Noi avevamo già 35. Esatto. No, loro avevano qualche anno in più di me. E poi in quel periodo c'erano i miti del rock, per cui c'erano i Rolling Stones sicuramente, ma poi anche, non so, i Led Zeppelin, tutti quei gruppi degli anni 60 e 70 che erano un po' la nostra ispirazione. Dopodiché, crescendo, i gusti sono cambiati. Come dicevo prima, abbiamo percorsi musicali un po' diversi, per cui io prima di suonare con i Krell e con i Mirror Man suonavo con un altro gruppo e facevamo un genere diverso che forse era ancora più vicino al rock progressivo, infatti, per quello che magari in certe cose forse lo si ritrova, anche perché comunque c'è stato un passato anche legato a quel tipo di musica lì, per cui soltanto in quel lui, periodo soltanto io Paolo, il bassista, però con l'altro gruppo che io ascoltavamo effettivamente gruppi progressivi, non so, dalle Orme al Valletto di Bronzo, quei gruppi lì. Decisamente progressivi, esatto, il Valletto di Bronzo, che erano un po' un'ispirazione per la musica che facevamo. È un po' caustico nel confronto del progressivo. Sì, ma non lo ama assolutamente. Non lo ama assolutamente. Sto facendo un po' il percorso che poi però è cambiato. Però gli Aria mi piacciono. Gli Aria non sono un gruppo. Sì, fanno parte di un'altra categoria, esatto, probabilmente. Dopodiché, crescendo, i gusti sono cambiati e poi comunque cominciando a suonare con loro. Gli abbiamo buttato via quei dischi lì. Ho imparato ad apprezzare anche altri gruppi, per cui il garage rock e anche comunque poi sicuramente il blues, che poi adesso è la musica un po' di riferimento. Allora, questi sono i gusti di Paolo. Allora, sentiamo i gusti di Stefano. Io sono partito dai Rolling Stones, per cui, che mi hanno permesso di scoprire poi il blues, che è la mia passione principale a livello musicale, che mi ha poi permesso di scoprire la musica tradizionale, non soltanto americana, ma anche quella italiana, per esempio. Certo, quindi dai Rolling su, praticamente. E quindi ti permette di capire che anche in Italia esiste, tra virgolette, una sorta di blues. Se tu ascolti, non so, una come Giovanna Daffini, che era questa cantante popolare mondina della zona di Gualtieri, che sta sul Po verso Reggio Emilia, quella zona. Vogliamo lì ricordare questo nome, perché non possiamo. Giovanna Daffini, è stata la maestra di Giovanna Marini, che è stata la sua maestra sua, ma non soltanto. Era una cantante popolare straordinaria. Cantando queste canzoni legate alle lotte anche dei lavoratori, non so, dei lavoratori delle mondine, ma legate anche, non so, ha cantato la canzone su Sante Caserio, che è stato quello che ha pugnalato il re di Francia, cantando la musica così impegnata, il canto sociale, ecco, il canto popolare, che per quello mi riguarda è una scoperta in maniera approfondita relativamente recente, negli ultimi 5-6 anni. Però è stata una scoperta, come quando ho scoperto Captain Beefheart, mi si è aperto un nuovo mondo. Ho capito. E quindi, diciamo, i Rolling Stones, il blues, praticamente tutto fino agli anni 60, gli Stooges, perché no, hip hop, anche loro, assolutamente. Captain Beefheart, ma molti altri anche. Certo. Bene. E Giovanna Daffini. Quindi abbiamo citato tre artisti anche per Stefano. Leo. Allora, io mi sono appassionato alla musica perché ho cominciato a letteralmente ad adorare David Bowie quando avevo 13 anni, immagino. David Bowie della trilogia berlinese, il primo sperimentale, perché ho avuto la fortuna di avere una sorella che aveva tutta la discografia di David Bowie. Ho detto, ma strano questo qua, è strano, lo trovo strano tuttora e non mi stanco proprio di ascoltarlo e riascoltarlo. Per me è stato proprio... capace di sintetizzare quello che girava nell'aria. Certo, cambiava sempre. Cambiava sempre, in continuazione. Più che camaleonte, un sintetizzatore, sì, di idee, secondo me. E per me è proprio nel genere pop, lui è stato geniale, è un genio del pop. Però non soltanto David Bowie, ma poi tantissimo altra musica, magari correlata in qualche modo a Bowie, per esempio la New Wave a me piace moltissimo, diventavo matto per i Cure, per gli Smiths, Talking Heads, ecco. Però se devo fare proprio dei nomi che mi hanno segnato profondamente e che considero grandi artisti, che andrò a vedere ancora se sarà possibile, la Nick Cave, tantissimo. Certo. E Tom Waits, i due punti di riferimento tuoi. Punti di riferimento. E poi però anche il discorso della canzone popolare, la canzone di lotta, la canzone politica, ho anche questo senso della, mi piace. Lolli Bertelli oppure no? Lolli? No, cioè proprio il canto, lui faceva riferimento al canto delle mondine. Ah, ho capito, ecco, proprio popolare, il canto sociale. Ho capito. Bene, allora facciamo ascoltare adesso un qualcosa. Mi avete dato questo CD in mano questa sera, no? Non avevamo mai visto la copertina e quindi anche per noi sarà una sorpresa ascoltarlo. È un CD con la copertina rossa, è intitolato Made of Illusion, View of Delusion. Vabbè, allora prima che vuol dire? Prima ce l'ascoltiamo. Skeleton, che è un CD di qualche anno fa, quando il gruppo cantava ancora in inglese. Un CD di 5 anni fa, non mi ricordo. 4. Allora ci ascoltiamo The Skeleton Wife e poi torniamo a commentare i vecchi tempi dei Mirror Man. Blu Radio Sera. When the light turns into the night and the trees show the skeletons, she comes from the grave to sing a song to the moon. She was the most beautiful girl that human eyes have ever seen, but the cruel hand has closed her smile forever. So sweet is our voice. Rotten dress, sweep them to the wind, while the tears falls onto the ground. This is a weeping song about a sweet young girl. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato un altro pezzo dei Mirror Man, si intitola The Skeleton Wife, tratto da Made of Illusion, Views of Delusion. E allora un clima rock verso il western, oserei dire, sì. No? Tanto di rock e pistole in questo caso. Esatto, Tex-Mex. O Guns and Rock. E Guns and Rock, hai ragione. Sì. E parlavamo prima, mentre il pezzo andava, qui con i musicisti, che di Stan Ridgway, quindi quel gruppo straordinario cui lui lavorava, costruiva, disfava e faceva di tutti i colori, ma era lui, Stan Ridgway. Era decisamente molto interessante. Dopo che se n'è andato gli hanno fatto un paio di dischi soltanto. Esattamente, e lui era lui che portava avanti tutto il discorso. È un pezzo straordinario questo qua, è un pezzo del vostro passato però che fate ancora in concerto. Sì, lo facciamo ancora perché è una canzone che ci piace ancora, per cui la... ci piace riproporla e poi ci serve. Abbiamo soltanto 8 canzoni cantate in italiano. Per arrivare a meno un'ora. Per quadrare il cerchio, praticamente. Due in arrivo, però. Due in arrivo nuove. Ah, due in arrivo e nuove. Quindi già pronto, già qualche momento già predisposto. No, puoi farne un accenno, no? Adesso per caso di sta roba oppure no? È una cosa troppo grande. Ho chiesto una cosa troppo grande. Boh, allora, si potrebbe magari dopo. Magari dopo, verso la fine. Sunset Boulevard. Boulevard. Ecco. Facciamo un accenno della novità, è una cosa bella per noi, Flavio. Certo, assolutamente sì. E, allora, per tornare sull'argomento di Stelle di Ruggine, appunto il vostro nuovo lavoro, c'è anche la possibilità, per chi entrerà in possesso del vostro CD, di vedere anche una traccia video del tutto particolare e un po' fuori, oserei dire. Sì, chi me lo vuole raccontare? Cosa è nato in voi? Da dove? Allora. Sì, ecco, partiamo. È la a noi piacciono le maschere, gli sì. specchi, le maschere, i riflessi, infatti Mirror Man per omaggiare, onorare Cat Van Bihar, però ci piace proprio l'idea del mascheramento, sì. del riflesso dell'immagine. E una danza macabra, perché ci parebbe abbastanza cabarettistica. E poi il fiume, l'elemento del fiume che caratterizza il blues, e non poteva non esserci la presenza del fiume, perché è molto legato proprio anche all'immaginario blues, e quindi l'abbiamo fatto lì, sul Po d'inverno. Bene. E quando chiamate mare in quella canzone è proprio l'effetto del Po, allora, in quel caso. Sì. Beh, un mare il Po, Flavio, diciamo, è grandissimo. Il Mississippi, l'arteria delle Italie. E l'abbiamo girato a Gualtieri, questo video, e qua mi ricollego quando parlavo prima di Giovanna Daffini, perché Gualtieri è il paese dove ha vissuto per 30 anni Giovanna Daffini, ed era anche il paese di Ligabue, il quale ci ispira molto, no? Come, sia per i quadri che faceva, sia per il modo che faceva farli. Lui, se dipingeva un gallo, lui faceva anche il verso del gallo. Doveva digibarsi praticamente. C'è un bel, se qualcuno interessa, c'è un bel museo dedicato a Ligabue, lì a Gualtieri, con dei filmati molto particolari in cui lo si vede all'opera, ed è davvero un'esperienza straordinaria. Certo, certo. Poi hanno fatto anche un film, mi pare, legato sempre a Ligabue, dove c'era Flavio Bucci. Sì, sì, quello degli anni 70, sì, me lo ricordo, ero bambino. Infatti io avevo imparato Ligabue e conoscevo solo lui, poi quando ho capito che c'era, c'era un altro. C'era un altro. Ho capito che c'era anche un altro, un certo Luciano. Vabbè. Ecco, ci tengo a dire, scusa, sì, che questo prego. Video l'ha fatto un nostro amico che si chiama Andrea Pirondini, che vive a Bologna, è un autore di video, se qualcuno interessa, lui ha un sito, che adesso, hai lì la custodia del CD? No, no, ce l'ho, no, io di qua. Però credo è segnato dietro andreapirondini.com, se non mi ricordo, oppure Pet Food. Andrea Pirondini, Pet Food Production, Pet Food. No, c'è l'indirizzo email. Se qualcuno interessa si possono vedere. a.pirondini@tiscoli.it. Perfetto. Perfetto, ci sono dei suoi lavori, è molto bravo. Ok, ringraziamo un momento Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, sì. Grazie della sua volontà, siete venuti qua stasera. Lo ringraziamo anche noi tantissimo. Grazie. E anche la Chiara, che sta facendo le fotografie e sistemando le telecamere. E prima o poi imparerà anche ad operare il mixer. Può darsi, sì. Cantare so già, sa suonare la chitarra, quindi ha già cominciato bene. Perfetto. Ok. Allora Maurizio, noi andiamo anche ad ascoltare un altro pezzo live, se certamente, anche i certamente. Mirror Man sono d'accordo, visto cosa? Che avete le belle due chitarre, un po' rossa di percussioni. Ah, bene. Questo brano si trova Rosso, una rosa. Rossa una rosa dietro un sospiro, nacque d'inverno il cielo stupì, il fior più bello, il fiore dei fiori, in poche ore di freddo morì. Rossa una rosa in un paese lontano da qui, il re del regno una mosca sposò, fu un grande amore ma non durò, sognando una notte se la mangiò. Rossa una rosa, rossa una rosa, al chiar di luna il poeta cantò, del grande ingegno umano cantò, ma un cacciatore passando da lì, credendolo un cervo al poeta sparò. Rossa una rosa, un principe d'oro a cavallo partì, per liberare il suo amore partì, ma visto il drago se ne maghì, ed il suo amore dovette sparire. Rossa una rosa, rossa una rosa, life, oh life, so green, to be life, to be or not to be, just words, the blue in the wind. And then to blue sky and life for life. Shot great, to be alive, to be or not to be, just words. The blowing wind. Oh, what a wonderful, wonderful world. Killing lies, raise your heart, raise your heart, raise your heart. Killing lies, killing lies, killing lies. Killing lies, killing lies, killing lies. Raise your heart, raise your heart, raise your heart. Breaking glass, breaking glass. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E siamo ancora qui noi di Blu Radio Veneto all'interno della programmazione musicale della sera, quindi Blu Radio Sera in versione live ancora con Flavio e Maurizio, e ospiti della serata sono i Mirror Man con la presentazione del loro CD Stelle di Ruggine e anche per la presentazione dei loro bei brani live. Allora, questo pezzo è partito in italiano e poi è arrivato ad essere espressione teatrale inglese, quasi amletica. L'intento era quello di farlo tutto in italiano, però mi sono reso conto che nel ritornello stava meglio cantato in inglese. E poi fa un accenno a Over the Rainbow, Judy Garland, che così fa parte anche quello del mio immaginario un po' infantile, poetico, ma così quello fatto di oggetti, degli oggetti buttati in discarica poi alla fine, ecco. È un pezzo surreale che ribalta un po' le situazioni. Mi piace che pensare al principe d'oro che si innamora del drago e uccide la principessa. E, poi Life on Live, It's Not Great to Be Alive, è un po' scanzonato così, però dice anche oltre l'arcobaleno non c'è proprio niente, c'è proprio un cielo vuoto, ecco, così, giusto per dare la nota. Però posso dire una cosa, non è una marra balla di Nick Cave, però l'amore per Nick Cave in questo pezzo si sente fortissimo, secondo me. Bene. Si sente molto forte. Tra l'altro, tra parentesi, Flavio, te lo dico, per un mese è andato su questo pezzo qua, perché Nick Cave a me piace particolarmente. Sentendo i Mirror Man, ho sentito idealmente anche Nick Cave, ho messo su questo pezzo per un mese. Rosso no rosa. È un pezzo molto molto bello, molto significativo, molto particolare e positivo al 100% a me, secondo me. Maurizio, abbiamo ancora 9 minuti da dedicare ai Mirror Man. Come possiamo proseguire? Visto che siamo in diretta si può fare quello che si vuole, gli ultimi 9 minuti per sfogarsi alla maniera più bella. Una jam session musicale totale, fate quello che volete. No, quella è bella, non possiamo facciamo parlare perché la chitarra acustica le prendiamo in mano giusto per venire qua. Sì, ho capito. Sì, sì. No, ma allora io direi che potremmo fare un altro pezzo da disco, perché ho visto che, anzi, prima mi avete messo curiosità e l'avete messa anche gli ascoltatori, presentando, ma senza farlo ascoltare, il brano L'Uomo Invisibile. Per esatto. Cui direi che eventualmente ci fermiamo, ascoltiamo L'Uomo Invisibile, poi tornando per i saluti voi ci salutate alla maniera Mirror Man. Va bene. Benissimo, allora ascoltiamo il pezzo appunto che dà, che è la prima traccia dell'album Stelle di Ruggine, si intitola L'Uomo Invisibile ed è proprio quell'uomo di cui prima si parlava con le maschere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un vento caldo vicino al mare, io pensavo che fosse bello poter vanire, non restar più, non esser più. Della pioggia bagna il contorno di un volto amaro che non c'è più, che non c'è più. Oh, anima mia, non sei che un soffio che il vento porta via. I'm the invisible, I'm the invisible man. Invisible, I'm the invisible man. I'm the invisible, I'm the invisible man. Vedo il cielo di un giorno che muore. La pioggia bagna il contorno di un volto amaro che non c'è più. Come un soffio di un vento caldo vicino al mare. pensavo che fosse bello poter svanire, non restare più, non essere più. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, L'uomo invisibile, il brano l'abbiamo ascoltato dei Mirror Man da Stelle di Ruggine ed è proprio il brano che è anche in formato MPG all'interno del lavoro dei Mirror Man, proprio per dare la possibilità di vedere anche le loro performance video e non solamente ascoltarli via audio, quindi capirete che sono dei pazzi però con la testa. Va bene. Vabbè, allora Maurizio, per concludere. Beh, io dico solo una cosa: la musica dei Mirror Man è una musica atipica. Sì, perché assolutamente sì. Congloba parecchie cose: il folk, il rock. Noi abbiamo citato il punk sotto sotto. Abbiamo citato solo parzialmente, ma il punk è una base fondamentale della vostra musica. Si è poi evoluto, c'è il blues soprattutto, però il punk, ragazzi, la forza, certe tematiche, certi modi di interpretare le cose, certe accelerazioni e certi rallentamenti nei vostri pezzi hanno qualcosa di punk, secondo me. Cosa dici? Sì, assolutamente, anche perché il punk col tempo è cambiato, si è soprattutto negli anni 80, cioè non ci sono soltanto i Sex Pistols, no. Ci piacciono comunque, certo. No, comunque il punk rock tra virgolette classico si è comunque contaminato con altri. Poi, per esempio, un gruppo per noi fondamentale sono i Gang Club, che sono questo gruppo americano degli anni 80. Gli anni 80 quelli veri da rivalutare, ma neanche da rivalutare, che non sono mai stati dimenticati sti qua. Certo. Che ha mischiato il punk con il blues e ha fatto musica straordinaria. Che in effetti poi c'è stato quell'elemento del post-punk dove ha permesso a molti gruppi di rivalutarsi, oltre quelle che erano le atmosfere base del punk molto dure. Sì. Molti, alcuni hanno anche, come dire, aggredito il punk in versione elettronica, sì, da cui è nata la New Wave e tutto quello, assolutamente. E tutto quello che c'è stato poi. Decisamente. Allora Maurizio, abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme, velocemente l'ospite di domani sera. L'ospite di domani sera è un gruppo di Belluno, è molto interessante, è il quarto disco, sono musica d'atmosfera in alcuni momenti, un po' decadente, anche se quel disco nuovo che hanno fatto adesso è un disco più di canzoni rispetto ai dischi precedenti, da quindi sentire assolutamente. È un gruppo anche conosciuto. Sì, molto, sì, decisamente conosciuto. Non voglio che Clara. Esatto, quindi, non voglio che Clara, diretti, guidati da Fabio De Mi. Adesso c'è stato un cambiamento di formazione, ma loro fanno una musica interessante, d'atmosfera, introspettiva, ma ripeto, più da canzoni, stavolta più musicale, con dei ritornelli. Bisogna sentirlo assolutamente domani sera dopo la pallavolo dalle 22:15 con Agostino in regia, che mi darà una mano alla conduzione del programma. Benissimo, allora ancora una volta ringraziamo i Mirror Man per essere venuti grazie qui a voi, direttamente da Brescia. Veramente un piacere. Grazie a voi. Molto. Grazie a voi. Anche perché è un piacere parlare con persone che hanno queste competenze musicali. E hanno passione musicale. E questa passione. E si sente. Grazie. Si sente. Soprattutto, oserei dire Maurizio, il nostro critico musicale. Ma c'è anche Flavio, siamo in due qua, assolutamente. Molto meno. Più la redazione, Agostino, e soprattutto Alberto Plisco, che ha curato tutti questi concerti live, li cura tutti lui praticamente. Diciamo che Maurizio, quello che avete da voi, è il nostro mentore, nel senso che è il oscuro. Il mentore oscuro. Mentore oscuro. La parte che ci, come dire, ci fa conoscere sempre musica nuova e ci aggiorna sulle cose vecchie, nel senso che certe tendenze, cioè chiedete qualsiasi cosa, lui sa tutto, sa pescare, è un, è un'enciclopedia, altro che prendere i CD-ROM dell'enciclopedia del rock, è lui. Bravo, bravo. Vabbè, e giocava a Memories da piccolo, eh? Sì, è vero, hai ragione. Ecco, così si fa la radio, secondo me. Se si fanno programmi musicali bisogna conoscerlo un po' la musica, bisogna conoscerla, certo. Amarla, eh? Amarla, questo è una cosa che stiamo proponendo, e anche con grandi soddisfazioni, sempre con gruppi poi a testimonianza anche della, del vostro arrivo. Bene, allora vi ringrazio. Ci salutiamo, grazie. Però voi ci dovete salutare con un pezzo. Ah, va bene. Ce lo meritiamo. Avevo capito di no. No, è io fondamentale. Sì. È fondamentale, allora, il vostro pezzo. Allora noi, scusa, io e Maurizio salutiamo il nostro pubblico. Voi lo salutate dopo la canzone. Va bene. Va bene, a posto. Allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, buona serata a tutti. Vi lasciamo con i Mirror Man. Sogno di un sogno. Sento stelle, neve, neve sotto il sole, sembra un sogno, dentro un sogno, e nel luogo dove le viole suona il lamento di un vecchio violino. Porto con me solo un raggio di luna e qualche goccia del mio sudore, sembra un sogno. Di un sogno, di un sogno, 13 fiamme girano in tondo, ardo un parale letto a metà. Morte che canta, morte che balla, c'è sempre un posto anche per te. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Resta che andare via nel silenzio della notte. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Spot. Pubblico e privato. Le interviste.